24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Paolo Piacenza, un nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano resta la difficile congiuntura economica, alle tensioni sui mercati, con le borse che archiviano la settimana in negativo si aggiungono i timori sulla recessione. E infatti si torna a parlare di Eurobond, mentre la Spagna mette in campo una manovra anticrisi. Proprio in Spagna continua la visita del Papa per la Giornata Mondiale della Gioventù, ma parleremo anche di Siria, di immigrazione e dei risultati dell'Europa League. Per le borse europee è stata un'altra giornata difficile. I timori di una nuova recessione globale, nonostante le rassicurazioni del presidente americano Obama e del presidente dell'Unione Europea Van Rompuy, sono infatti molto forti. I mercati del vecchio continente hanno chiuso con perdite secche anche nell'ultima seduta della settimana. Complice l'andamento di Wall Street, che prima ha favorito la ripresa, poi ha frenato, condizionando in negativo le piazze d'Europa. Londra ha chiuso a meno 1,01%, Parigi a meno 1,92%, Francoforte a meno 2,19%. Anche per Milano è stata una seduta all'insegna dei cali, FTSE All Share meno 2,12%, FTSE MIB meno 2,46%. Non c'è pace per Fiat sulla borsa milanese. La paura di una nuova recessione per l'economia occidentale, unita alle difficoltà che la casa automobilistica sta incontrando su mercati emergenti come India e Brasile, continuano a consigliare agli investitori la vendita delle azioni del gruppo torinese. Fiat Industrial, la società che raccoglie le attività di veicoli commerciali e macchine agricole del gruppo, ha perso un altro 6,4%, archiviando la settimana con un complessivo meno 18%, su cui ha pesato anche il giudizio negativo arrivato dagli analisti di Goldman Sachs. Fiat SPA, la società dell'attività auto, ha invece ceduto un altro 4,3%, completando un tonfo settimanale del 20%. Ma è stato tutto il settore auto europeo ad essere venduto a piene mani dagli operatori. Le francesi Renault e Peugeot hanno perso quasi il 5%. Le tedesche non hanno fatto molto meglio, completando la giornata di borsa con un meno 3,3% per BMW e un meno 2,5% per Volkswagen, nonostante vendite brillanti nei primi 7 mesi dell'anno. Da Radio Corp e Radio 24, Andrea Fontana. Intanto, contro la recessione, torna in campo l'ipotesi Eurobond. Rimandata a giorni futuri dal duo Merkel-Sarkozy solo qualche giorno fa, l'ipotesi Eurobond torna a spuntare nel dibattito europeo, complice lo spettro della recessione. Spettro che sembra concretizzarsi nelle parole di Evangelos Venizelos, ministro delle finanze greco, quando annuncia che il PIL ellenico nel 2011 potrebbe accusare una contrazione superiore al 4,5%, ben oltre il 3,8 indicato finora, ma soprattutto nelle stime di JP Morgan sulla crescita del prodotto interno lordo americano nell'ultimo trimestre dell'anno. Stime riviste dal 2,5% all'1%, con rischi di recessione, secondo gli analisti, chiaramente elevati. Ecco allora che il commissario agli affari economici e monetari dell'Unione Europea, Olli Rehn, fa sapere che la Commissione potrebbe mettere a punto una bozza sull'emissione comune di Eurobond, nonostante le resistenze franco-tedesche. Mentre il dibattito prosegue, in Spagna il governo Zapatero ha approvato l'attesa manovra da quasi 5 miliardi di euro. L'esecutivo di Madrid ha deciso una riduzione temporanea fino al 31 dicembre dell'IVA sulla vendita di case nuove dall'8 al 4%, una modifica delle procedure di pagamento dell'imposta sulle grandi società e una riforma della normativa sulla spesa farmaceutica. Simone Spezia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora l'analisi di Giacomo Vaciago, docente di economia all'Università Cattolica di Milano. Non siamo mai riusciti a tornare a crescere come avevamo saputo fare anni passati. A questo punto, se tutti facciamo disciplina di bilancio e tagliamo i deficit pubblici, che è lo slogan, ahimè, purtroppo molto diffuso negli ultimi mesi, sui due lati dell'Atlantico, e a quel punto la recessione è il male minore, è anche inevitabile. Fare politiche coordinate non vuol dire fare tutti la stessa cosa. Qui purtroppo anche Sarkozy e la Merkel dovrebbero andare a scuola, perché è inutile che loro facciano la predica a noi, tagliamo tutti i debiti, mettiamo tutti in costituzione il pareggio, eccetera. Ci vuole intelligenza, e un gioco coordinato può essere chi ha poco debito faccia per piacere politiche espansive, chi ne ha troppo solo lui tagli sto debito. Se ci mettiamo a fare tutte manovre recessive, la recessione non solo è inevitabile, è voluta. A Madrid, dopo l'accoglienza festosa di 600.000 giovani in Plaza Cibeles, ma anche le manifestazioni degli indignados sui presunti costi eccessivi dell'evento, il Papa Benedetto XVI ha vissuto la sua seconda giornata alla GMG. Quando la sola utilità... Quando utilità e pragmatismo si ergono a criterio principale nella società e nell'educazione, le perdite possono essere drammatiche, dagli abusi di una scienza senza limiti fino al totalitarismo politico. È il monito che Benedetto XVI lancia ad una platea di giovani docenti universitari nella Basilica di San Lorenzo, all'Escoliar. Nel pomeriggio il pontefice ha visto il premier Zapatero, che secondo i media spagnoli gli avrebbe anche chiesto aiuto per risolvere la questione del mausoleo del dittatore Francisco Franco. Intanto non si ferma il dibattito sui costi della visita. Gli organizzatori assicurano che le spese vive, 50 milioni di euro, non gravano di un centesimo sulle casse pubbliche. Gli oppositori ribattono che si tratta di calcolare quanto pesa l'appoggio istituzionale, ad esempio sicurezza e uso di luoghi pubblici. Altri ancora sottolineano l'indotto che la visita genera. La questione ha causato proteste. La marcia laica di mercoledì a Puerta del Sol è finita con scambi di cori tra manifestanti e pellegrini, cariche della polizia, 8 arresti e 11 feriti. Una seconda manifestazione è stata indetta ieri sera per protestare. Stesso risultato e bilancio di 4 contusi. Stasera, mentre il Papa presiederà la Via Crucis, è previsto un nuovo raduno alla stazione di Atocha. Giacomo Segantini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora andiamo in Siria, dove, nonostante le prese di posizione di Stati Uniti ed Europa, non si fermano le violenze e la repressione. La comunità internazionale, Stati Uniti in testa, stringe lentamente il cerchio attorno alla Siria, invitando Bashar al-Assad a dimettersi e chiedendo all'ONU di imporre ulteriori sanzioni al paese medio orientale, mentre l'Europa pensa a un embargo sul petrolio. La Russia nel frattempo fa ostruzionismo e chiede di dare più tempo al regime di al-Assad e si dice contraria alla richiesta di dimissioni. Così, alla lentezza della comunità internazionale nel prendere una posizione comune e nel condannare la repressione, fa eco la prontezza del regime nel riprendere le armi contro gli oppositori, nonostante i rassicuranti proclami del presidente di 2 giorni fa, che aveva garantito che le operazioni militari si erano concluse. Secondo vari attivisti e testimoni, le forze di sicurezza siriane avrebbero ucciso almeno 20 manifestanti nella provincia di Deraada, dove hanno preso il via le rivolte 5 mesi fa. Proteste nella giornata di preghiera in tutto il paese, represse con violenza. Le forze di sicurezza hanno ucciso 5 persone, compresi 2 bambini, nella città di Gabab, a sud di Damasco, ha riferito l'Osservatorio Siriano per i diritti umani. E come sempre il regime ha spiegato i fatti come l'azione di uomini armati che hanno attaccato un posto di polizia, uccidendo e ferendo poliziotti e civili. Così la guerra mediatica e di propaganda prosegue con poche immagini che escono dal paese, spesso drammatiche, come il video apparso su YouTube e che mostra la ferocia di alcuni militari su prigionieri all'interno di un autobus, picchiati e costretti ad inneggiare ad al-Assad. Giampaolo Musumeci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ora parliamo di immigrazione verso l'Europa con la vicenda dei 70 eritrei bloccati addirittura a gennaio scorso nel deserto del Sinai, forse da trafficanti di uomini. Giampaolo Musumeci ha sentito Don Musie Zerai, fondatore dell'agenzia Beshia, che monitora la situazione degli eritrei nel Sinai. È una stima che noi abbiamo adesso, perché già a gennaio si parlava di 150 persone, perché noi a fine novembre abbiamo avuto la notizia inizialmente di questi intorno a 70 persone, poi dopo con le telefonate siamo arrivati a scoprire che erano 150, poi piano piano si è allargato il gruppo e adesso la stima che abbiamo è intorno a 150 persone, quelli che noi siamo riusciti a entrare in contatto, poi ci sono altri che ancora noi non siamo in grado di contattarli perché non abbiamo avuto possibilità, per cui c'è chi mi dice anche che possono essere fino a 400 persone, però questo parliamo solo di profughi eritrei e etiopi, poi di altre nazionalità che noi conosciamo ci possono essere, tanti hanno rischiato la vita, sono morti sotto le torture di questi trafficanti perché non riuscivano a ottenere i soldi che volevano, donne che venivano violentate, stuprate e continuamente costrette ad abortire. Ieri turno dell'Europa League, nelle partite di andata dei play-off c'è stata qualche sorpresa. La Roma infatti ha perso 1-0 a Bratislava contro lo Slovan, mentre a Helsinki l'HJK ha battuto 2-0 i tedeschi dello Schalke 04. Il Paris Saint-Germain si è imposto per 4-0 in Lussemburgo, fa meglio il Tottenham che segna 5 gol agli Hertz, ma il punteggio più largo è quello della Lazio, 6-0 ai macedoni del Rabotnički. Vittoria anche per l'Atletico Madrid, mentre l'Hannover ha piegato il Siviglia. È tutto per questo appuntamento con 24 ore in Europa, grazie a Valeria Bernardi in regia e a voi per l'ascolto. Un saluto da Paolo Piacenza e dalla redazione. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.